Libro 2. 4 anni di militanza pacifica. Capitolo 1. La campagna del 1907 iniziò con un Parlamento delle donne, riunito il 13 febbraio alla Caxton Hall per valutare i provvedimenti del discorso del re, che era stato letto nel Parlamento nazionale nel primo giorno della seduta, il 12 febbraio. Il discorso del re, come ho già spiegato, è l'annuncio ufficiale del programma di governo per una certa seduta. Quando il nostro Parlamento delle donne si riunì alle 3 del pomeriggio del 13 febbraio, sapevamo che il governo non aveva alcuna intenzione di fare qualcosa per le donne nel corso della seduta che aveva davanti. Presiedetti l'assemblea, che fu segnata da un fervore e una determinazione a quel punto senza precedenti. Fu avanzata e approvata una risoluzione in cui si esprimeva indignazione per il fatto che il tema del suffragio femminile fosse stato messo dal discorso del re e si invitava altresì la Camera dei Comuni a dare immediata precedenza a questa misura. Venne approvata anche una mozione per far arrivare la risoluzione dall'aula al primo ministro. Lo slogan "Alzatevi donne" fu gridato dal palco e la risposta fu pronunciata tutte insieme come fosse una sola donna. Adesso! Con le copie della risoluzione tra le mani, una delegazione scelta procedette sul finire di febbraio, pronta per il Parlamento o per il carcere, come avrebbe decretato la sorte. La sorte non lasciò molto spazio al dubbio. Il governo, da quel che si diceva, aveva deciso ancora una volta di non permettere che le sue sacre aule venissero profanate dalle donne che reclamavano il diritto di voto. E aveva dato ordine che da quel momento in poi si impedisse alle donne persino di avvicinarsi alla zona della Camera dei Comuni. Pertanto, quando la nostra delegazione giunse nei dintorni dell'abbazia di Westminster, trovò ad attenderla un massiccio schieramento di polizia, che su preciso ordine del suo capo cominciò ad avanzare tra i ranghi del corteo, cercando di respingere le donne. Coraggiosamente le donne si radunarono e avanzarono a loro volta. Improvviso, un reparto di agenti a cavallo arrivò al trotto e per le 5 ore successive, o forse più, infuriò una battaglia quasi indescrivibile per brutalità e spietatezza. I poliziotti a cavallo irruppero direttamente sul corteo, sparpagliando le donne a destra e a sinistra, ma le donne non retrocedettero ancora. Tornavano di continuo, tentavano di evitare i feroci zoccoli. Alcune donne lasciarono la strada e si rifugiarono sui marciapiedi, ma furono inseguite anche lì dagli uomini a cavallo, che le premevano contro i muri e le ringhiere, al punto che furono costrette a ritirarsi temporaneamente per non finire schiacciate. Altre scelsero la strategia di ripararsi dentro i portoni, ma vennero sbattute fuori dalla polizia a piedi e rigettate davanti ai cavalli. Tuttavia, le donne continuavano a lottare per raggiungere la Camera dei Comuni con la loro risoluzione. Combatterono finché non ebbero tutti i vestiti lacerati, i corpi feriti e l'ultimo grammo di energia esaurito. 15 di loro riuscirono a farsi strada attraverso centinaia e centinaia di poliziotti, a piedi e a cavallo, finché non raggiunsero la Stranger's Lobby della Camera. Qui tentarono di imbastire un'assemblea e furono arrestate. All'esterno, molte donne vennero prese in custodia. Si fecero le 10 prima che fu effettuato l'ultimo arresto e la strada sgombrata. Dopodiché i poliziotti a cavallo restarono di guardia nei dintorni della Camera dei Comuni, fino a quando la Camera uscì, che era mezzanotte. Il mattino seguente, 57 donne e 2 uomini furono chiamati in giudizio, 2 o 3 per volta, al posto di polizia di Westminster. Christabel Pankhurst fu la prima a salire sul banco degli imputati. Tentò di spiegare al magistrato che la delegazione del giorno prima aveva l'intenzione assolutamente pacifica di presentare una risoluzione, che prima o poi sarebbe stata presentata e considerata. Garantì che la risoluzione non era che l'inizio di una campagna, che non sarebbe cessata fino a quando il governo non avesse accolto la richiesta delle donne. Non possiamo più tornare indietro, dichiarò, e succederà ancora se non avremo giustizia. Il magistrato, Curtis Bennett, destinato a processare in seguito le donne per quell'ancora, fece una severa ramanzina a mia figlia, dicendole che il governo non aveva nulla a che fare coi disordini del giorno prima, che le donne erano totalmente responsabili di ciò che era accaduto e, per finire, che queste vergognose scene per strada dovevano cessare. Un po' come quando Re Canuto intimò alle onde di allontanarsi anziché venirgli incontro. «Le scene si possono fermare in un solo modo», replicò la prigioniera. La sola risposta del magistrato fu 20 scellini o 14 giorni». Christabel scelse la pena del carcere e così fecero anche le altre prigioniere. La signora Despard, che guidava la delegazione, e Sylvia Pankhurst, che era con lei, furono condannate a 3 settimane di reclusione. Ovviamente l'attacco, come fu definito, offrì un enorme ritorno pubblicitario alla WOSPU, pubblicità interamente favorevole. I giornali biasimarono quasi unitamente il governo per aver fatto intervenire le truppe a cavallo contro delle donne disarmate. Dure interrogazioni furono poste in Parlamento e le nostre fila si ingrossarono ulteriormente per dimensioni e ardore. I suffragisti vecchio stampo, sia uomini sia donne, lamentarono il fatto che c'eravamo alienati tutti gli amici in Parlamento, ma questo si sarebbe rivelato falso. Anzi, un membro liberale, il signor Dickinson, aveva ottenuto il primo posto alle elezioni e aveva annunciato che intendeva sfruttarlo per presentare un progetto di legge sul suffragio femminile. Di più ancora, il primo ministro, Sir Harry Campbell Bannerman, promise di dare il suo supporto al progetto di legge. Per un po', molto poco è vero, sentimmo che l'ora della nostra liberazione era imminente, che le nostre prigioniere avevano forse conquistato il nostro prezioso simbolo, il voto. Presto, tuttavia, diversi suffragisti dichiarati della Camera cominciarono a lamentare che il progetto di legge di Dickinson, praticamente il progetto originario, non fosse abbastanza democratico, che avrebbe emancipato soltanto le donne dell'alta società, a cui peraltro molte di loro appartenevano. Che ciò non fosse vero era stato ripetutamente dimostrato dai registri municipali, che evidenziavano una maggioranza di nomi di lavoratrici rispetto alle proprietarie di immobili. La disputa era chiaramente una debole scusa, e noi lo sapevamo. Perciò non ci sorprese che Sir Harry Campbell Bannerman tradì la sua promessa d'aiuto, permettendo che il progetto di legge venisse depennato. A seguito di questo evento, il pomeriggio del 20 marzo 1907, si riunì il secondo Parlamento delle donne. Come in precedenza, adottammo una risoluzione per invitare il governo a presentare un provvedimento ufficiale sul suffragio e votammo nuovamente per far arrivare la risoluzione al primo ministro passando per l'aula. Lady Herberton fu scelta per guidare la delegazione e istantaneamente spuntarono centinaia di volontari che si offrirono di accompagnarla. Questa volta la polizia aspettò le donne all'ingresso dell'aula e lì ebbe luogo un'altra inutile, deplorevole scena di opposizione barbara e brutale. Qualcosa come 1000 poliziotti erano stati spediti a proteggere la Camera dei Comuni dalla pacifica invasione di poche centinaia di donne. Per tutto il pomeriggio e la sera tenemmo aperta la Caxton Hall, dove di tanto in tanto le donne tornavano da sole o in piccoli gruppi per farsi curare le ferite o ricucire i vestiti strappati. Col calare della notte la folla in strada si addensò e la battaglia tra le donne e la polizia si fece ancora più spietata. Ci giunse voce che Lady Herberton era riuscita a raggiungere l'entrata della Camera dei Comuni, o meglio, aveva fatto indietreggiare le sentinelle fin dentro la Stranger's Lobby. Ma la sua risoluzione non era stata consegnata al primo ministro. Lei e molte altre furono arrestate prima che la polizia alla fine riuscisse a sgomberare le vie e quel terribile evento si chiuse lì. Il giorno dopo, al tribunale di polizia di Westminster, il magistrato distribuì condanne che andavano da 20 scellini o 14 giorni a 40 scellini o un mese di reclusione. A 2 delle donne, la signorina Woodlock e la signora Chatterton, che erano uscite da Holloway appena da una settimana, in quanto recidive, furono inflitti 30 giorni commutabili con una multa. Un'altra donna, Mary Leigh, ebbe 30 giorni per aver offeso la dignità del magistrato, appendendo un cartello voto alle donne davanti al banco degli imputati. Chi tra i miei lettori non fosse in grado di collegare la parola militanza con qualcosa di più mite di un incendio doloso, è invitato a riflettere sul fatto che nei primi 2 mesi del 1907 il governo inglese mandò in prigione 130 donne, la cui militanza consisteva semplicemente nel cercare di far pervenire una risoluzione al primo ministro alla Camera dei Comuni. Il nostro crimine si chiamava resistenza alla polizia. Si capirà che era la polizia a fare resistenza. Ci si potrà domandare come mai nessuna di queste delegazioni fu guidata personalmente da me. La ragione è che io ero richiesta per altre competenze, quelle di capo e supervisore delle forze suffragiste in campo per sconfiggere i candidati governativi alle elezioni straordinarie. La notte della seconda sommossa, mentre le nostre donne combattevano ancora in mezzo alla strada, io lasciai Londra per Hexham, nel Northumberland, dove grazie al nostro intervento la maggioranza del candidato liberale fu ridotta di un migliaio di voti. Altre 7 elezioni straordinarie seguirono in rapida successione. Il nostro lavoro sulle elezioni straordinarie era una cosa talmente nuova nella politica inglese che attirava un'enorme attenzione ovunque andassimo. Era nostra abitudine cominciare a operare nel momento stesso in cui entravamo in una città. Se nel tragitto dalla stazione all'albergo incontravamo un gruppo di uomini, per dire, al mercato, ci fermavamo e tenevamo un'assemblea sul posto, oppure restavamo lì a spiegare dove e quando si sarebbero tenute le nostre riunioni, incoraggiandoli a partecipare. In genere il primo passo, dopo esserci assicurato un alloggio, era affittare un negozio libero, riempire le vetrine di opuscoli sul suffragio e sventolare la nostra bandiera viola, verde e bianca. Intanto alcune di noi erano impegnate a trovare la miglior sala disponibile. Se ci padronivamo del campo di battaglia prima degli uomini, delle volte riuscivamo a monopolizzare tutte le sale migliori e lasciavamo al candidato nient'altro che le scuole per le sue riunioni al chiuso. A dire il vero, le nostre assemblee erano talmente più popolari delle loro che avevamo sempre bisogno dei saloni più ampi. Capitava spesso che un candidato contrastato dalle suffragette parlasse davanti a una platea quasi vuota. La folla vera andava ad ascoltare le donne. Naturalmente ciò infastidiva moltissimo i politici e scandalizzava i sostenitori liberali vecchio stampo. In un posto, credo fosse Colne Valley, nello Yorkshire, si verificò un divertente episodio di ostilità maschile. Eravamo arrivati il giorno in cui sia il comitato conservatore sia quello liberale stavano scegliendo i loro candidati e pensavamo che fosse una buona idea organizzare una serie di raduni all'aperto. Cercammo di procurarci un autocarro che facesse da palco, ma l'unico uomo in città che possedeva questi grossi mezzi disapprovava le suffragette, così violentemente che non voleva darcene uno. Così ci facemmo prestare una sedia da un negoziante e ci arrangiamo con quella. Attirammo anche l'attenzione di alcuni ragazzini con le cerbottane e dovemmo tenere i nostri discorsi sotto una scrosciante pioggia di piselli secchi. Mentre parlavo io, il fuoco cessò, per mio grande sollievo, perché i piselli secchi pizzicano. Proseguì il mio discorso con rinnovato vigore, ma i miei punti forti furono disturbati da scoppi di risa tra la folla. Riuscii in qualche modo a finire e mi sedetti. E poi mi fu spiegato che i ragazzini con le cerbottane erano stati pagati da uno dei liberali di punta della città, un altro che disapprovava la nostra politica di opposizione al governo. Non appena i ragazzini avevano terminato le loro munizioni, quest'uomo li aveva riforniti con un'ampia scelta di arance marce. Ma a quanto pare, queste erano più difficili da maneggiare e infatti la prima era andata a schiantarsi violentemente sul collo del cavalleresco gentiluomo. Questo aveva generato le grandi risate e alla fine aveva interrotto il lancio contro le donne. Ci scontrammo con dei giochetti pesanti e anche un po' di brutalità in diverse elezioni straordinarie, ma nel complesso trovammo uomini pronti e donne ancor più pronte ad ascoltarci. Riuscimmo a domare e educare un pubblico che era sempre stato aduso alla violenza durante le elezioni. Addomesticammo persino i ragazzi che venivano alle assemblee con l'unico intento di far chiasso. Quando in primavera ci trovammo nel Rutlandshire, 3 scolari vennero a dirmi, timidamente, che erano interessati al suffragio. Avevano partecipato a un dibattito sul tema nel loro istituto e sebbene la decisione fosse andata da tutt'altra parte, i ragazzi volevano saperne di più. Avrei potuto magari indire una riunione speciale solo per loro? Certo, acconsentì e mi ritrovai a parlare davanti a un auditorio di ragazzi davvero piacevole. Mi sarebbe bastato piacere loro la metà di quel che mi dimostrarono. E per tutta la primavera il nostro lavoro sulle elezioni straordinarie continuò con incredibile successo, anche se il nostro ruolo nelle perdite del governo fu solo di rado riconosciuto dai politici. Gli elettori lo sapevano in ogni caso. A una tornata nel Suffolk, dove speravamo di doppiare i voti degli unionisti, il candidato vincente, parlando alla folla dalla finestra del suo albergo, disse: «Qual è stata la ragione di questa grande e gloriosa vittoria?» La folla rispose all'istante: «Vota alle donne! Tre urrà per le suffragette!» Non era affatto quello che il candidato intendeva, ma salutò cortesemente quella mano e disse: «Non c'è dubbio che le signore abbiano fatto la loro parte». I corrispondenti dei quotidiani non erano così riluttanti a riconoscere la nostra influenza. Anche quando condannavano la nostra linea politica, erano generosi nell'ammirare la nostra energia, il coraggio e l'ardore del nostro operato. Un inviato del Tribune di Londra, foglio liberale tradizionalmente ostile alle nostre tattiche, scrisse: «La loro capacità di resistenza, giudicandola dal punto di vista degli uomini, è straordinaria. Tenendo assemblee pomeridiane e serali, hanno lavorato il doppio rispetto agli uomini. Si alzano prima, si ritirano tardi. Contrapposte agli uomini, le donne sono oratori più efficaci, più razionali, più informate, più espressive, con idee più chiare sui temi forti». Dopo un'estate spesa a rafforzare le nostre energie, a organizzare nuove filiali, a tenere assemblee, qualcosa come 3.000 tra maggio e ottobre, a invadere le riunioni dei ministri del governo, riuscimmo a farlo quasi quotidianamente ad ogni tornata elettorale e a promuovere grandi dimostrazioni di protesta in svariate città, arrivammo alla fine dell'anno. Negli ultimi mesi dell'anno seguì diverse elezioni straordinarie, tra le più contestate, e a una di queste incappai in una delle disavventure più serie della mia vita. Questa elezione straordinaria si teneva nella divisione di Mid Devon, una roccaforte di liberalismo. Di fatto, sin dalla sua istituzione nel 1885, il seggio non era stato mai occupato da qualcuno che non fosse un liberale. La circoscrizione è di quelle grandi ed è suddivisa in 8 distretti. La popolazione delle città è ruvida e turbolenta e la sua devozione, cieca e irragionevole al Partito Liberale, ha sempre rispecchiato lo spirito rude degli elettori. Una donna unionista mi disse, poco dopo il mio arrivo, che la mia vita sarebbe stata in pericolo se avessi osato fare aperta opposizione al candidato liberale. Lei non aveva mai osato, mi assicurò, portare i colori del suo partito in pubblico. Tuttavia, io tenni dei discorsi nel nostro quartier generale a Newton Abbot, la città principale della divisione, a Hull e a Bovey Tracy. Tenemmo 2 assemblee al giorno, invitando gli elettori a sconfiggere il governo nel Mid Devon, come messaggio che il prossimo anno le donne devono avere il diritto di voto. Anche se alcuni incontri furono burrascosi, venimmo trattate con maggiore riguardo di qualunque candidato, che spesso veniva ricoperto di fischi e messo in fuga. Solitamente l'area delle loro riunioni si riempiva di verdure guaste e palle di neve sporca. Anche noi capitarono sedute alquanto agitate. Una volta, a un raduno all'aperto, alcuni giovani spinsero e trascinarono il nostro autocarro fin quasi a farlo rovesciare, e altre volte il linguaggio che la folla ci scagliava contro fu tale che mi è impossibile ripeterlo. Comunque evitammo episodi di violenza fino al giorno delle elezioni, quando fu annunciato che il candidato unionista si era aggiudicato il seggio con una maggioranza di 1.280 voti. Capimmo subito che ne sarebbe conseguito un forte risentimento dei liberali, ma non ci rendemmo conto che il risentimento sarebbe stato rivolto attivamente contro di noi. Dopo la dichiarazione dell'esito del voto, io e la mia compagna, la signora Martel, ci incamminammo verso il nostro alloggio. Alcuni nostri amici ci fermarono e ci fecero notare il neoeletto parlamentare unionista, che veniva scortato dal luogo della votazione da un robusto schieramento della polizia. Fummo avvisate che per la nostra sicurezza avremmo dovuto lasciare immediatamente la città. Sorridendo, garantì ai nostri amici che non avevo mai avuto paura di gettarmi nella mischia, e così proseguimmo. D'improvviso ci trovammo di fronte a un'orda di giovani, uomini e ragazzi, tagliatori di argilla usciti dalle cave ai margini della città. Questi giovani, che indossavano la coccarda rossa del Partito Liberale, Avevano appena saputo della sconfitta del loro candidato e ribollivano di rabbia e frustrazione. Uno di loro ci indicò, urlando: «È colpa loro! È colpa di queste donne!» Un grido si levò dalla folla e fummo sommerse da una pioggia di argilla e uova marce. Non eravamo particolarmente spaventate, ma le uova erano insopportabili e per evitarle ci rifugiamo in una piccola drogheria lì vicino. La moglie del droghiere chiuse e sprangò la porta, ma il povero droghiere strillava che il suo negozio sarebbe stato distrutto. Non volevo che ciò avvenisse, naturalmente, perciò chiesi loro di farci uscire dal retro. Ci accompagnarono alla porta, poi in un piccolo cortile che dava in una stradina, da dove speravamo di riuscire a scappare. Ma quando raggiungemmo il cortile, scoprimo che i teppisti, anticipando la nostra mossa, avevano svoltato l'angolo e ci stavano aspettando. Agguantarono per prima la signora Marte e cominciarono a riempirla di pugni sulla testa. Ma la coraggiosa moglie del negoziante, sentendo gli strilli e le imprecazioni degli uomini, riaprì la porta e ci fece segno di rientrare. Tra me e lei cercammo di liberare la signorina Marte dai suoi carcerieri e riuscimmo a riportarla in casa. Anch'io stavo per entrare nella casa, ma non appena fui sulla soglia sentii un fortissimo colpo alla nuca e delle mani ruvide che mi afferravano per il bavero del cappotto e fui sbattuta violentemente a terra. Stordita, dovete aver perso i sensi per un istante, perché la mia sensazione seguente fu di fango freddo e umido che penetrava attraverso i miei vestiti. Tornata alla vista, percepì la presenza degli uomini, ora in silenzio, ma un silenzio orribile e schiacciante, stretti in circolo davanti a me. Al centro c'era una botte vuota e mi venne l'orrendo pensiero che volessero ficcarmici dentro. Sembra passare tanto tempo, mentre il cerchio degli uomini si faceva sempre più stretto. Li guardai nei loro vestiti macchiati di giallo dell'argilla della cava e sembravano così malnutriti, così mingherlini e fradici, che avvertì nei loro confronti un forte senso di pietà. Povere anime, pensai, poi dissi: «Ci sono degli uomini tra di voi?» Poi uno dei ragazzi si lanciò verso di me e capì che qualsiasi cosa stesse per accadermi, quello era solo l'inizio. A un certo punto si udirono delle urla, il trambusto della polizia che si era fatta strada tra la folla ostile per venire a liberarci. Ovviamente la banda girò i tacchi e si dileguò, e io fui condotta delicatamente all'interno del negozio, che la polizia restò a proteggere per un paio d'ore, prima che per noi fu ritenuto sicuro andar via con un auto mezzo chiuso. Occorsero molti mesi perché io e la signora Marte guarissimo dalle ferite. I teppisti, incuranti delle preghiere delle loro donne, andarono alla sede dei conservatori, sfasciarono le finestre dell'edificio e tennero assedio i membri per tutta la notte. Il mattino dopo il corpo di un uomo, orrendamente ferito alla testa, fu rinvenuto nel canale del mulino. Con tutti questi disordini e un probabile omicidio, nessun uomo fu arrestato. Confrontate questo episodio, se vi va, con il trattamento riservato alle donne a Londra. Il re dichiarò aperto il Parlamento il 29 gennaio 1908. Il suo discorso omise di nuovo ogni riferimento al suffragio femminile e di nuovo la WSPU indisse una riunione del Parlamento delle donne per l'11, il 12 e il 13 febbraio. Prima che venisse convocato fummo informate che un eccellente posto nella votazione era stato ottenuto da un amico del movimento, il signor Stenger, che promise di presentare un progetto di legge sul suffragio. Il 28 febbraio era il giorno fissato per la seconda lettura e capimmo subito di dover fare molta pressione per evitare che il progetto naufragasse, come era successo al progetto di Dickinson l'anno precedente. Quindi, il primo giorno di riunione del Parlamento delle donne, quasi ogni donna si offrì volontaria per far parte della delegazione che avrebbe tentato di portare la risoluzione al primo ministro. Guidata da ben due note ritrattiste, la delegazione partì dalla Caxton Hall e avanzò a ranghi ordinati, in fila per quattro, diretta alla Camera dei Comuni. Per le strade c'era una folla enorme, migliaia di simpatizzanti venuti per dar manforte alle donne, migliaia di poliziotti decisi a far sì che le donne non ricevessero aiuti e migliaia di spettatori curiosi. Al termine della battaglia, 50 donne furono rinchiuse nelle celle del tribunale di polizia. Il mattino dopo, quando fu esaminato il caso, il signor Musket, che guidava il procedimento legale in nome della corona e che forse era un po' stanco di ammonire le suffragette affermando che queste scene nelle strade dovevano cessare e di vedere poi che loro le ripetevano come se non avesse mai parlato, fece un discorso veramente duro e raccapricciante. Riferì alle donne che questa volta sarebbero state soggette al massimo della pena di 2 mesi di carcere, con l'opzione di una multa di 5 sterline, ma che nel caso avessero creato nuovi disordini, la legge aveva in serbo per loro condanne peggiori. Fu proposto di riesumare al solo beneficio delle suffragette una legge promulgata sotto Carlo II, che regolava le tumultuose petizioni sia per la corona sia per il Parlamento. Tale legge stabiliva che nessuno osasse andare dal re o al Parlamento con una petizione, una lamentela, una rimostranza, una dichiarazione o altre istanze, accompagnato da un numero di persone superiore a 12. Sotto questa legge si poteva comminare un'ammenda di 100 sterline o una pena detentiva di 3 mesi. Il magistrato allora condannò tutte le donne, tranne 2, a tenere una buona condotta per 12 mesi o a servire 6 settimane nella seconda divisione. Altre 2 donne, recidive, furono condannate a 1 mese nella terza divisione, la più dura. Tutte le prigioniere, a parte le 2 che a casa avevano i congiunti molto malati, scelsero la pena del carcere. La seduta del giorno dopo del Parlamento delle Donne fu percorsa da una forte eccitazione, con le donne che rivivevano gli eventi del giorno prima, i processi e soprattutto la minaccia di riesumare l'obsoleta legge di Carlo II, una legge che fu promulgata per ostacolare il progresso del Partito Liberale, che nacque sotto gli Stuart e che, sotto Carlo II, combatteva per la propria sopravvivenza. Era davvero incredibile che i discendenti politici di quegli uomini proponessero di riesumare la legge per ostacolare l'avanzata della causa femminile, che combatteva per la propria sopravvivenza sotto Giorgio V e il suo governo liberale. Quantomeno era la prova di quanto il governo fosse confuso nel tentativo di scacciare il nostro movimento. Christabel Pankhurst, presiedendo la seconda seduta del Parlamento delle Donne, affermò: «Finalmente si è capito che le donne stanno combattendo per la loro libertà, così come avevano lottato i loro padri. Se vogliono 12 donne, bene, e più di 12, e se cercano 100 donne da processare con la loro legge e da mandare in prigione per 3 mesi, le hanno trovate». Io non ero presente a questa seduta, così come non ero presente alla prima. Stavo lavorando alle elezioni straordinarie di South Leeds, ultima delle elezioni straordinarie nei grandi centri industriali, dove il nostro successo era indiscutibile, tranne che per la stampa liberale. Le elezioni erano state animate da un grande corteo e da un raduno di 100.000 persone a Hounslow Moor. Quel raduno fu segnato da un meraviglioso entusiasmo. Non dimenticherò mai la splendida compostezza tenuta dalla gente, malgrado il fatto che non avessimo alcuna protezione della polizia. Il modo in cui la vasta folla si apriva per lasciar passare il nostro corteo, come la moltitudine di operaie ripeteva in coro col forte accento dello Yorkshire: «Vinceremo! Avremo il voto! Lo avremo!» Lo credo bene che gli anziani scuotevano la testa e dicevano di non aver mai visto niente del genere.